America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Bene, a partire da questo lunedì vi voglio dare un format nuovo, cioè fare una copertina della settimana. Abbiamo anche anticipato la trasmissione alle 13.33 e la copertina di questa settimana, è il Fondo Monetario Internazionale, le riunioni del Fondo Monetario Internazionale che si terranno a Lima a partire dai prossimi giorni, per avere poi nei giorni finali della settimana le riunioni del G7, dei banchieri centrali e così via. E perché il tema è della settimana? Non solo perché ci sono le riunioni, ma perché i dati americani la settimana scorsa non sono stati rassicuranti. Abbiamo visto una frenata sull'occupazione, incertezze per l'aumento dei tassi, mercati di nuovo agitati, in fiamme. Per questo ministri, banchieri centrali a queste riunioni di Lima in Perù aggiungeranno a quelli cinese, brasiliano, russo anche il dossier americano per una discussione completa su dinamiche che possono portare a un ridimensionamento dei percorsi di crescita mondiale. Sentiamo Christine Lagarde, il direttore del fondo e dunque la persona ideale per inquadrare questa nostra copertina. He dresses like a Brit. Utters a few words. He doesn't use his body language. He doesn't drive fast cars. Yes. Ecco, come vi dicevo, non necessariamente i grandi funzionari finanziari internazionali devono essere ingessati. Qui avete sentito la Lagarde che descrive Mario Draghi in questo modo, dice: veste da britannico, non guida macchine veloci, non ancora almeno, dice la Lagarde, non usa il linguaggio, come dire, a gesti, che è tipico degli italiani, e di poche parole, ma è lo stesso la quintessenza dell'italiano, è colui che ha fatto di tutto per difendere la stabilità della moneta unica, e qui la Lagarde entra in tema. L'Europa, dice, di fatto è solida, la moneta unica è rimasta, la crisi greca è superata ed è archiviata e dunque si guarda in avanti. Ma è questo uno dei due dati dell'equazione, proprio la posizione dell'Europa che Mario Draghi porterà a Washington. Ve la do in anteprima qui su America 24. Sentiamo Draghi. The fate of Europe is obviously of immediate interest. Ecco, Draghi parla in inglese alla platea dell'Atlantic Council, un think tank con sede a Washington che gli ha dato un premio, e dice di fatto che l'Europa in 3 anni ha stabilizzato la sua situazione, l'euro a questo punto è più forte, la strada da seguire è chiara, non ci fermeremo finché non sarà completata l'unione monetaria di cui, secondo Draghi, il mondo non può fare a meno. La domanda di oggi non è tanto se l'Europa abbia davvero fatto passi avanti, è di questo che si parlerà appunto a Lima, alle riunioni del fondo, ma se potrà, come dire, sostituirsi alle debolezze degli altri paesi che non ce la fanno, soprattutto a quelle americane se saranno confermate. Ed ecco che la domanda di fondo torna a riguardare l'economia americana, perché rallenterà davvero? Quanto conta questo dato sui 142.000 salariati dipendenti contro i 200.000 attesi che abbiamo avuto venerdì, dunque molto meno di quello che ci si aspettava? Ecco, secondo me conta relativamente poco, perché molti settori americani continuano a tirare piuttosto bene, quello immobiliare per esempio, il settore dell'auto ha mostrato vendite per il mese di settembre in forte rialzo, un rialzo medio del 16%. E arriviamo al punto chiave, la Fed, perché improvvisamente si torna a dire, con questa situazione di debolezza, la Fed non aumenterà i tassi alle riunioni del 27-28 di ottobre. E che io non so se la Fed li aumenterà o meno, non lo sa nessuno, ma se non li aumenta questi tassi, la Fed di nuovo, secondo me, l'ho detto in passato, commetterà un errore. Perché se prendiamo atto che il percorso cinese, di traino cinese, è più debole, c'è una crescita molto al di sotto del 7%, gli ultimi dati ci hanno addirittura anticipato, come dire, una crescita forse del 5%, per l'America le cose sono diverse e ci vuole un segnale di leadership che si imbocchi finalmente a Washington la nuova strada con la stessa decisione con cui l'Europa di Draghi ha imboccato la sua. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di fondo monetario, di equilibri finanziari e dunque degli AC/DC, Money Talks. tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.